Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, c'è una discreta frenesia da parte di molte società nel perseguire il rinnovamento in vista della prossima stagione. È giusto non perdere tempo, ma insomma in qualche caso si direbbe che il campionato riparta domenica prossima, non il 28-29 agosto. Non so, del Neri si è fatto, immagino io, andare di traverso lo champagne per la Sampdoria domenica sera per la fretta comunque di svincolarsi dalla Sampdoria e di passare alla Juventus. Le notizie di giornata. La prima che arriva da Piano Gentile va approfondita, ma non è positiva per l'Inter, perché a 4 giorni dalla finale, anzi a 5 per la verità, correggo l'ansa, Balotelli ha accusato un problema muscolare durante l'allenamento. Ha lasciato la seduta prima dei compagni con un'espressione rassicurante, toccandosi, leggo, la parte posteriore della coscia sinistra. Problemi anche per Mariga, che si è fermato durante la partitella, e anche per Julio Cesar, che ha concluso prima l'allenamento. Oltre 200 giornalisti ad Piano Gentile, contestate di tutto il mondo come ESPN e Al Jazeera, hanno assistito all'allenamento. C'erano diverse centinaia di tifosi con striscioni e cartelloni di incitamento. C'è invece chi, anziché prepararsi a una finale, programma il futuro. Beppe Marotta, neo direttore generale della Juventus, ha detto: per correttezza posso dire che non ho ancora firmato, ma lo farò tra mercoledì e giovedì. La Juventus è in una situazione oggi non consona al suo blasone, non ho la bacchetta magica, ma c'è un presidente giovane e mi auguro un rilancio dal punto di vista sportivo. Non è una Juve da rifondare, è una Juventus da ricompattare. E poi domani sarà in edicola il settimanale A, in cui c'è un lungo sfogo, il resoconto, un lungo sfogo di Silvio Berlusconi, la cui sintesi è quasi quasi rinuncio al Milan. Il principale cruccio del Cavaliere, leggo dalle anticipazioni battute delle agenzie, è il no incassato da Van Basten, cui era stato proposto il ruolo di allenatore. Marco non ha accettato l'offerta e io non so che fare, avrebbe detto Berlusconi, per poi aggiungere: vendere Milan mi costerebbe in termini di popolarità, non è una decisione facile, vi ricordate quando ho venduto Kakà, ci ho rimesso 3 punti alle europee, e poi con la crisi economica che c'è non è facile trovare un compratore. Allarghiamo l'orizzonte, ci spostiamo in Europa, dove troviamo come sempre Fabio Tavelli. Buondì Fabio. Buongiorno a te Gigi, buongiorno a tutti. Dunque, io partirei dal Bayern, perché abbiamo sentito brevemente le ultime sull'Inter, poi probabilmente qualcos'altro arriverà di più preciso. Da un punto di vista internazionale non c'è dubbio che sia il Bayern a catalizzare l'attenzione. Che cosa sta succedendo a Monaco in queste ore? Ma intanto dopo i non troppo moderati festeggiamenti per il Meisterschale, e io dico non troppo moderati perché onestamente a memoria mia vedere un allenatore come Van Gaal, che immaginavo sobrio in tutti i sensi a ringare la folla come ha fatto lui a Monaco di Baviera l'altra settimana, è un'immagine che sinceramente faticherò a dimenticare. Il Bayern di Monaco in tutto questo poi ci ha aggiunto anche la Coppa di Germania, vinta in maniera molto larga contro il Werder Bremen, che tornerà l'anno prossimo, la prossima stagione, in Champions League. Quindi il Bayern di Monaco in questo momento sta molto bene. C'è stata la sentenza del TAS di Losanna, che è arrivata ieri, che ha rigettato l'ennesimo ricorso per avere Ribéry. Io credo da un lato che il Bayern di Monaco dovesse farlo questo, nel senso che fosse quasi un atto dovuto far vedere formalmente di provare in tutti i modi a riavere Ribéry che ha giocato tra l'altro ovviamente la finale di Coppa di Germania. Penso anche che sia un vago motivo di debolezza quello di voler a tutti i costi cercare di recuperare un giocatore squalificato per 3 giornate quando ne ha scontata solo una, nel senso che tutti sanno e tutti sappiamo quanto sia importante Ribéry, sappiamo anche che non è stata la migliore delle stagioni per Ribéry. Detto questo, era onestamente impensabile. Io credo che nemmeno i dirigenti tedeschi poi nelle loro segrete cose pensassero di poter recuperare Ribéry. Mi ha anche abbastanza colpito l'intervista rilasciata da Van Gaal, il quale ha più volte rimarcato la sua differenza nei confronti di Mourinho, cioè Mourinho cerca la vittoria, io cerco il bel gioco, che può essere interpretata, poi andrebbe ascoltata. Cioè, ci vorrebbe un po' di contorno, perché la sintesi giornalistica potrebbe essere fuorviante. Questo non vuol dire che Van Gaal non cerchi la vittoria, Van Gaal la cerca come la cerca Mourinho, nello stesso modo, ci arrivano magari per due strade diverse. Diciamo che la carriera di Van Gaal è più costellata di tentativi di emulazione di Rinus Michels rispetto a quelli di Pino, che invece ha cercato un pragmatismo tutto suo ed ha cercato di, di, di, di vincere il più possibile, e c'è riuscito con i giocatori forti o meno forti, soprattutto forti, che i presidenti gli hanno messo a disposizione. Certo, leggo dall'ultima ora di Sky Sport 24, con un altro conduttore ovviamente, se no non ci saresti tu a parlare con noi, che la lista di Lippi passa da 30 a 28 giocatori, i due esclusi non sono ancora noti, ma dovrebbero essere Grosso e Candreva. Ma la fonte di Alciato, che è il vero commissario tecnico della nazionale, ieri sera era abbastanza sicura nel senso dell'esclusione di Candreva e l'esclusione di Grosso. Poi il vero CT, che invece è Marcello Livio, magari cambierà idea, però vedo che la scrematura procede molto lentamente. Beh, insomma, io credo che Grosso già la stagione intera, ma soprattutto il finale della stagione di Grosso, se poi vogliamo parlare di sabato sera a San Siro, credo che, per quanto uno, per carità, ricordi il 2006, ricordi quanto fu decisivo allora, ecco, insomma, sarebbe un po', oggi sarebbe francamente un po' imbarazzante. Spostiamo, poi torniamo ai campionati e spostiamoci un attimo ad un'altra notizia che arriva dalla Spagna, che è una notizia di mercato in questo caso. Sport, quotidiano sportivo catalano, scrive oggi che il Barça avrebbe deciso di mettere in vendita Ibrahimovic. Potrebbe andare, insomma, secondo Sport, sì, a uno dei due Manchester oppure al Chelsea, e poi aggiunge che potrebbe forse invece essere scambiato con Fabregas dall'Arsenal. Insomma, mi sembra la, come dire, l'ufficializzazione del fatto che, al di là dei gol segnati, la metà abbondante dei quali a porta vuota, però vorrei ricordare, a porta vuota e con, no, con Messi o Iniesta o Xavi o Pedro, chi che gliele metteva in maniera che non la potesse sbagliare, perché quest'anno a volte avrebbero potuto tirargliela anche addosso. Ecco, esatto. Però, forse, Gigi, io anticipo quello che tu stai per dire. Credo che da un lato sia anche, non dico irrispettoso, però stiamo parlando di uno che ogni anno che Dio mette in tavola vince il campionato. Ci sono delle volte nelle quali lui è determinante e delle volte nelle quali lui è ininfluente. Credo che sia stato poco influente per la Liga, credo che sia stato molto influente in negativo in Champions League, a parte la gara d'andata con l'Arsenal, non dimentichiamoci, segnò due gol all'Emirates. Detto questo, io credo che ci siano delle colpe di Ibrahimovic, ma anche delle colpe, e in questo caso sono superiori, di chi l'abbia preso. Cioè, sì, noi queste l'estate scorsa l'abbiamo detto, ma noi, ma chiunque, perché non ci voleva una scienza infusa per dire che Ibrahimovic era assolutamente inopportuno a questo Barcellona, in questo Barcellona. Ibrahimovic secondo me può andare ovunque, cioè può andare ovunque e far bene ovunque. Certo. Ora, pensare che lo prenda Wenger mi sembra difficile, perché la filosofia di Wenger è tutt'altra. Pensare che lo prenda Ferguson, forse, pensare che lo prenda Mancini al Manchester City, molto probabile, anche se ha già De Bayor, però è un giocatore che con Mancini secondo me potrebbe vincere un altro campionato, cioè la Premier League. Il bravo Lippi, scrive un ascoltatore juventino, Grosso ce lo dobbiamo sorbire giusto noi, e dopo che per di più era stato lui a consigliarcelo, beh, qualcosa più che consigliarcelo, se è per quello, ma era ancora, questo era un anno e passa fa, quando la situazione era un po' diversa e quando Lippi, dopo la nazionale, avrebbe dovuto tornare immediatamente alla Juventus, nel frattempo, come dire, suggerendo il parcheggio di Ferrara, oltre ad una serie di acquisti, tra i quali Grosso. Torniamo al calcio internazionale, che poi, insomma, di agganci col nostro ne ha parecchi. La rassegna stampa spagnola del Mattino comprende anche ovviamente l'evoluzione della trattativa tra il Real Madrid e Mourinho. AS scrive che il rappresentante di Mourinho, cioè Jorge Mendes, avrebbe già lasciato intendere che manca soltanto la firma ufficiale. La ricostruzione di Marca è che Moratti avrebbe offerto un congruo aumento al suo allenatore, ma Mourinho avrebbe respinto l'offerta rispondendo che non è una questione di soldi. I bookmaker londinesi, che su queste vicende si avventano, come sapete, ben prima che sorgano, quindi figurarsi adesso, non quotano più Mourinho Real Madrid. Nel frattempo a Milano si moltiplicano gli appelli, il web nerazzurro è una specie di muro del pianto, no? In questo momento, e contrasta, a proposito della partenza di Mourinho, contrasta ovviamente con una squadra che ha appena vinto una coppa, un campionato, e che ha il 51% almeno di probabilità di vincere anche quella che conta di più. Gli appelli sono anche dei calciatori. Zanetti ha appena nella conferenza stampa di oggi ha appena detto: vinciamo per convincere Mourinho. Io personalmente penso, lo so che uno non lo può nemmeno immaginare, ma è stato il contrario semmai, cioè perdiamo per convincere Mourinho, perché io credo che se Mourinho c'entra l'impresa totale non ce ne sia. Forse un colpo di teatro nel caso in cui la finale non dovesse andare a quel modo, potrebbe anche non essere da escludere, ma sono ragionamenti paradossali. Visti dall'Europa, che effetto ti fanno, Fabio? Ma guarda, la sensazione è che l'accordo ci sia già, la decisione sia già stata presa. Sono abbastanza d'accordo con te, cioè nel caso di vittoria, peraltro l'Inter è chiaramente, poi si tratta di 51-49 evidentemente, ma l'Inter è favorita per questa vittoria. José Mourinho avrebbe forse l'unico sfizio, cioè quello di tentare di vincere anche l'Intercontinentale, che ha molto meno fascino rispetto ad anni fa, però lui stesso non la giocò con il Porto quando vinse la Champions League qualche anno fa, perché andò immediatamente al Chelsea. È evidente che Mourinho non può aver firmato un contratto, altrimenti rischierebbe una pesante squalifica, e certamente non lo ha fatto. I casi sono due: o lui... io credo che lui comunque caratterizzerà la finale, sia che la vinca che la perda, cioè se lui vincerà la partita, cioè se l'Inter vincerà la partita sarà la vittoria di Mourinho, e a quel punto lì bisognerà capire quanto gli andrà di tentare di imitare Guardiola, perché l'Inter vincendo la Champions League potrebbe giocare la Supercoppa europea e il torneino lì, insomma, dell'Intercontinentale, il mondialito per club, insomma, forse non mi ricordo neanche bene come si chiami ormai, perché certo, ha perso un pochino di appeal almeno ai miei occhi, e credo anche ai tuoi. Il fatto contrario, cioè una sconfitta, potrebbe, poi bisogna vedere come matura la sconfitta o come matura la vittoria, potrebbe convincerlo a volerci riprovare, a non voler andare via da battuto, perché comunque gira e rigira la stagione dell'Inter, comunque è da considerarsi vincente, però manca il carico da 11, cioè finora ha vinto ed è stata bravissima, però ha vinto quello che doveva vincere, che era normale, sì, vincesse, certo. Ora deve vincere la Champions League, e quindi in questo caso, se non ci riuscisse, forse potrebbe essere che Mourinho, che è evidentemente un condottiero nato in questo senso, gli potrebbe venire voglia di restare per riprovarci, ben sapendo quanto possa essere difficile ritornare a giocare una finale Champions League. Cioè, tutti scenari che credo arrovellino la testa, forse più nostra o dei tifosi, in questo caso dell'Inter o non dell'Inter, perché magari in realtà Mourinho ha le idee, le ha molto più chiare, sì, ha già deciso tutto ed è giusto che sia così, immagino, perché anch'io. Comunque ma è un professionista. Non escluderei il colpo di teatro. In ogni caso molti ascoltatori la pensano grosso modo così, non so, Davide Pezzetti da Mantova, leggo il suo, la sua delle mail arrivate in materia, perché era più sintetica: scommettiamo che se l'Inter non vince la Coppa Mourinho resta a Milano, se così non fosse significherebbe che non ho capito nulla del personaggio. Questa secondo me è una buona riflessione. Passerei a una sintesi finale dei campionati d'Europa di quest'anno, d'Europa nel senso dei campionati di club in tutta l'Europa, a parte il fatto di un incredibile finale in Svizzera, perché la formula prevede che il Basilea ha vinto il suo titolo, e l'ha vinto all'ultima giornata contro lo Young Boys, che era il concorrente diretto, andando a vincere fuori casa. Retrocede la Rau, che è ultima, la penultima deve fare lo spareggio con la seconda della seconda divisione. Beh, è saltato fuori un derby ticinese addirittura impressionante, perché la penultima della Serie A è il Bellinzona, la prima, cioè la seconda della Serie B è il Lugano, e quindi venerdì Bellinzona-Lugano e martedì Lugano-Bellinzona, credo che in Ticino si divertiranno, o comunque ne avranno per questo derby assolutamente storico e poi assolutamente drammatico anche nel suo genere calcistico, perché si tratta di salvarsi o retrocedere. Dicevo di un bilancio generale, Franco Piantalida ha assemblato e poi fatto un po' di riflessioni tra i numeri. Tu sai, Fabio, che ci siamo spesso domandati negli scorsi anni, soprattutto lo scorso anno, che valenza, che valore forse anche in assoluto avessero quei campionati in cui c'era una squadra che vinceva con 20 punti, l'altra con 15, che non c'era alternanza al vertice, eccetera. Bene, quest'anno ci hanno accontentati perché il distacco massimo tra la prima e la seconda nei vari campionati che conti in Europa sono i 6 punti tra Marsiglia e Lione in Francia. In Italia sono 2, Inter e Roma. In Inghilterra è 1 tra Chelsea e Manchester. In Spagna sono 3 tra Barcellona e Real, ma insomma 2 maturati negli ultimi minuti. E in Germania sono 5 tra Bayern e Schalke. E i cambi al vertice sono stati tantissimi, e ancora in Italia e in Inghilterra, ancora pochissime giornate fa, in Italia e Inghilterra per esempio erano davanti le seconde, e quindi per una volta insomma c'è stata un'annata emozionante su tutto il fronte europeo. Non c'è dubbio, testa a testa praticamente ovunque, anche se poi hanno vinto le favorite, nel senso che è mancata la vittoria dell'outsider, come era capitato l'anno scorso col Wolfsburg in Germania. In Germania il Wolfsburg e in Francia il Bordeaux credo siano state le grandissime delusioni, così come in Italia la Juventus e in Inghilterra il Liverpool. Segnerei però tra le altre cose un gap mostruoso e che non può non far riflettere in Spagna il fatto che le prime due siano andate a braccetto a una velocità tripla rispetto alle altre, che in Spagna ormai manchi la terza forza. In Inghilterra, l'Inghilterra ha pagato pesantemente a livello europeo perché quest'anno non ha vinto nulla, anche l'Europa League ci è arrivata vicino al Fulham, ma il Fulham non è un'espressione altissima del campionato inglese. Il campionato inglese è stato certamente interessante, innervato dalla presenza di Carlo Ancelotti, l'equilibrio è stato massimo, poi alla fine comunque vincono sempre loro, nel senso che hanno vinto Chelsea, Barcellona, Bayern di Monaco e Inter, per cui hanno vinto comunque le favorite al termine di sfide entusiasmanti. Però se andiamo a fare la somma delle giornate nelle quali Barcellona, Inter e Chelsea e Bayern di Monaco sono state prima in classifica, credo che avremo anche qui un dato abbastanza chiaro, dove seppur con qualche difficoltà e con qualche punto in meno del passato, quelle forti vincono sempre. Questo è un dato incontrovertibile. Sì, direi anch'io che è un dato oggettivo. Tornano nei messaggi, tornano molto questi concetti su Mourinho, sui contratti pluriennali, per esempio. Sì, parecchi ascoltatori domandano: ma allora a che serve firmare dei contratti pluriennali? Se, infatti è una bella domanda che credo non sia nemmeno inedita, se vogliamo. No, non è nemmeno inedita. Come al solito si risponde che nessuno dei due contraenti ha una pistola puntata contro e quindi certo, è libero di poterlo fare. Tendenzialmente le società tengono lunghi i contratti perché vogliono bloccare gli allenatori e i giocatori per molti anni, ma tutti sappiamo bene quanto sia sbilanciato il potere in questo momento a favore di allenatori e giocatori, col vantaggio per gli allenatori in questo caso di firmare contratti lunghi e avere la garanzia, salvo rari casi, di prenderli sempre tutti questi soldi, anche certo, in caso di esonero, mentre invece le società a volte rischiano che l'allenatore se ne vada via, al punto che molte si cautelano, Cellino in questo caso un maestro, e fa valere il cartellino dell'allenatore, certo, cioè se il Milan vuole prendere Allegri deve dare qualcosa. E forse non ha torto Cellino. Io credo proprio trattare un allenatore come un giocatore. Credo proprio di no. Credo che il migliore in campo in questo caso sia Del Neri. Lo sottolinea Max da Udine con un messaggio quanto mai opportuno. Scrive questo ascoltatore: Del Neri, da bravo e concreto friulano, fa sempre contratti annuali. Così è lui, semmai, a dare il ben servito al presidente e non l'opposto. Non è male questo. Sì, ci vuole coraggio. Del Neri è una persona evidentemente con la schiena dritta, oltre che con molta sicurezza nelle proprie qualità, fa così, fa bene ed è giusto ed è legittimo riconoscerglielo. Grazie Fabio. Grazie a te. Io credo che i prossimi appuntamenti saranno evidentemente già in chiave premondiale e poi direttamente mondiale con Fabio Tadelli in Sudafrica per Sky Sport 24 e ovviamente noi da qui a cercarlo come abbiamo sempre fatto in questi mesi. Mourinho, la conferenza stampa di oggi: nessuno ha giocato come l'Inter. Mourinho ha ricordato le due partite, quella in casa contro il Barcellona e quella di Stamford Bridge contro il Chelsea, rispondendo a Luis Van Gaal, che aveva definito difensivista il gioco nerazzurro. Contro il Lione, ha ricordato Mourinho, Van Gaal, dopo l'espulsione di Ribéry, ha cambiato la squadra in modo difensivo. Dire le cose che dice lui è come gettare la sabbia negli occhi. Questo è il commento di Mourinho. Per la verità non mi ricordo che dopo l'espulsione di Thiago Motta l'Inter sia andata all'attacco a Barcellona, ma sarebbe stato assurdo farlo. E d'altra parte anche il Bayern in 10 contro 11 giustamente si è coperto senza per questo rinunciare ad attaccare, tanto è vero che poi ha vinto la partita. Chissà quante altre amenità sentiremo da qui a sabato sera. Arrivano poco alla volta le altre dichiarazioni fresche di Mourinho nella conferenza stampa di oggi. Van Gaal è preoccupato per l'arbitro, io lo sono per il vulcano islandese. Mi piacerebbe andare solo venerdì a Madrid e invece dobbiamo andarci domani. Questa è la mia unica preoccupazione dell'arbitro, non mi preoccupo. E poi ha aggiunto, la partita con la Fiorentina, gli italiani non la dimenticano, allo stesso modo che gli inglesi non dimenticano il cartellino rosso a Rafael, ma questo non è un mio problema. Rafael, ricordo, è il giocatore del Manchester United, espulso durante la partita di ritorno contro il Bayern, espulso in una maniera assolutamente sacrosanta, e guai se non fosse stato espulso. Mourinho non completa il discorso dicendo che i giocatori del Chelsea, invece tutti gli inglesi, hanno dimenticato l'arbitraggio di Inter-Chelsea all'andata, ma questo forse l'hanno dimenticato subito perché avevano avuto la fortuna di avere 2 anni di cultura sportiva portata da Mourinho. Andrea dalla provincia di Lucca, buongiorno. Pronto? Dica. Sì, buonasera, io non sono un tifoso, sono semplicemente un amante del calcio e adoro i calciatori tecnici, quando poi questa tecnica è unita alla potenza è l'apoteosi. Sì. Ora, io ho sentito, sono entrato quando stavate già parlando di Ibrahimovic, sì. Però io voglio dire, non si può discutere Ibrahimovic, penso che non abbiate fatto questo, perché... No, abbiamo parlato della compatibilità di Ibrahimovic col Barça, io ricordo... Oh, su questo sono d'accordo. Ah. Infatti lui è lì che se le schiaccia con due mattoni e gode quando non ci coglie. Penso che abbia sbagliato tutto quelle scelte, perché quest'anno all'Inter vinceva il pallone d'oro lui. È d'accordo con me? Non lo so, io non so neanche, non lo so, no, questo ho qualche dubbio. Io credo che l'Inter si sia arricchita senza Ibra, ma non perché Ibra non sia un grande giocatore, uno che aveva vinto i 5 precedenti campionati in Italia da protagonista assoluto, 2 con la Juve, 3 con l'Inter, è chiaro che è un campione, però è vero anche che era un campione che canalizzava il gioco d'attacco, la finalizzazione. Quest'anno mi pare che le soluzioni siano diverse, e quindi se lei pensa che Milito ha segnato gli stessi gol di Ibrahimovic e anche come qualità non li ho trovati molto inferiori, per usare un eufemismo, e che in più i vari Eto'o, Balotelli, Pandev, Snyder eccetera hanno avuto tante più soluzioni di gioco che non dare la palla sempre o quasi sempre soltanto a Ibrahimovic, mi sembra che l'Inter sia uscita arricchita. Lei non è d'accordo? Avrebbe avuto riuscito, ma io ti faccio una domanda: Eto'o Ibra chi prende lei? Non ho capito, il? Eto'o Ibra chi prende lei? Dipende da che squadra è, se è l'Inter dell'anno scorso prendo certamente Ibrahimovic, se è una squadra come quest'anno in cui ci sono Snyder, Milito e Balotelli prendo tutta la vita Eto'o. Ma non perché è facile dirlo adesso, ma perché, come diceva Tavelli prima, insomma, se Ibra avesse, a parer mio, il 20-30% di velocità d'esecuzione in più, allora avrebbe avuto un enorme successo anche a Barcellona, perché un pivot avanzato in grado di giocare la palla di prima credo che sarebbe stato perfetto per il Barça, e credo che sia questa la valutazione che il Barcellona ha fatto sbagliandola in estate. Invece Ibra semmai è diventato più lento a Barcellona, e questo mi pare sia stato il problema vero. Ci siamo, Andrea? No, fermo restando che nessuno la vuol convincere, ci mancherebbe. No, no, ma gli faccio un'ultima domanda. Non sono mica Raiola io, prendo. Ibra quest'anno al posto di Eto'o, secondo lei non faceva bene qua? Qua? No, guai. Secondo me Ibra quest'anno qua al posto di Eto'o incartava tutta, rallentava tutto, rallentava e faceva diventare prevedibile tutto quello che invece l'Inter quest'anno ha avuto di imprevedibile, di svelto e di cosa. Ibra sarebbe servito all'Inter quest'anno, e molto, anche in quelle 6-7 partite in cui la squadra non funzionava, nel momento in cui si è fatta rimontata dalla Roma. Allora sì, probabilmente, penso io, alcuni di quei pareggi sarebbero diventate vittorie. Com'era stato negli anni precedenti, quando si trattava di caricarsi la spalla in quadra, arrivederci, la squadra in spalla e andare. Però con un costo, che poi la squadra se la caricava sempre in spalla, e guai se non gliela mettevano su con lo zaino allacciato di tutto punto. Va bene, Guglielmo, Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Niente, io volevo fare un intervento relativamente al suo ospite di prima, del giornalista di Sky. Sì. che ha detto con una facilità disarmante che l'Inter ha vinto quello che doveva vincere. Io non sono d'accordo perché, primo, anche negli anni passati grandi squadre come la Juventus, come il Milan, che vincevano i campionati a raffica, credo che quasi mai, se non il Milan una volta sola, abbia fatto la coppiata Coppa campionato. E seconda cosa, l'Inter ha vinto, o Mourinho se volete dire, ha vinto il campionato e la Coppa qualificandosi per la finale di Champions League. Sminuire tutto nel dire che se perdiamo la finale non ha fatto il suo dovere perché lui è stato preso per vincere la Champions, francamente mi sembra riduttivo, perché una partita secca può succedere di tutto. Immagino che lei sarà d'accordo con me sulla doppia partita. Io credo che Inter-Bayer vince l'Inter tutta la vita, sulla partita secca è una partita secca. Su questo sono completamente d'accordo con lei, non sono d'accordo su tutta la vita, ma penso che l'Inter sarebbe più nettamente favorita di quanto invece non sia moderatamente favorita in una finale secca. Però mi creda, conosco e frequento abbastanza Fabio Tavelli per escludere che intendesse dire quello che lei ha interpretato in maniera così estremista, cioè intendeva soltanto dire che il campionato, poi non è arrivato alla Coppa Italia, anche se l'ha citata, ma insomma il campionato l'Inter l'ha vinto semmai in maniera più stentata degli altri anni, no? E lo sappiamo e ce l'abbiamo sotto gli occhi, per cui certo non è mai scontato vincere, ma insomma diciamo che era abbastanza nella norma. Non solo, in un anno in cui sono mancate è mancata l'unica rivale della vigilia e in maniera così clamorosa, cioè la Juventus, ma insomma rischiare di perdere la Roma diciamo che sarebbe stato un brutto colpo per un Inter nettamente superiore alla Roma. Questo immagino intendesse dire e questo io condivido. Mimmo Varese, buongiorno. Mimmo si è perso e quindi troviamo Dario da Lugano. Vediamo un po' se ci parla di questo spareggio Bellinzona-Lugano. Buongiorno Dario. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Innanzitutto le dico che qui nella regione di Lugano sentiamo Radio 24 e io lo ascolto sempre con piacere. Continuate così. Certo, certo. No, io volevo aggiungere un particolare abbastanza, diciamo, insolito, sì, a proposito del derby per salvezza, retrocessione, eccetera, tra Lugano e Bellinzona, che guarda un po' il calcio che cosa ti combina. Sì. Dunque, l'attuale allenatore del Lugano fino al mese di ottobre era sulla panchina del Bellinzona, che è il signor Schellibaum. Sì. L'attuale allenatore del Bellinzona, il signor Morinini, che è stato anche in Italia, mi sembra, sì, da Berlino, è vero. Ecco, e tre o quattro anni fa era sulla panchina del Lugano. Beh, non è male. Ma quanti, mi scusi un attimo, ma è chiaro che voi come ticinesi siamo italiani, sì. Mi pare che lo siate anche dal punto di vista del cambio di panchine, perché quanti ne ha cambiati Bellinzona e Lugano? Bellinzona ne ha cambiati tre. Ecco, perché io ero rimasto a Cavasin a un certo punto. Sì, ecco, esatto, e Murenini è subentrato a Cavasin. Lugano c'era il signor Boldini, che è stato licenziato proprio l'altro giorno perché ha perso l'ultima occasione per salire direttamente in Serie A. E quindi hanno ingaggiato Schellibaum, si figuri, per due partite. Non è male. Non si sa cosa succede. Secondo me, invece di farci contagiare noi da voi in tante cose che ne avremmo un gran bisogno, siete voi che vi state facendo contagiare nelle degenerazioni da pallone da noi. Dario, mi dica ancora una cosa, visto che è stato così gentile e così esauriente, come si pone questo spareggio? Cioè, sarà una lotta all'ultimo coltello, all'ultimo sangue. Coltello, piano col coltello. Prima di tutto, Bellinzona è nel sopraceneri e Lugano è nel sottoceneri. Sembra, sì, che siamo lontani, sì, ma siamo vicinissimi, ma non possiamo sopportarci, diciamo così. E lo è anche nel campionato di hockey tra l'Ambripiotta e il Lugano. Ah, certo. La stessa cosa. C'è una rivalità tremenda che però, ecco, qui devo aggiungere, non raggiunge certi eccessi di derby, mi scusi se mi permetto. No, si permetta derby pure. Derby vostri, non so, tra Lazio, Roma, certo, e Inter e Milan. Ecco, diciamo che fate gli italiani, ma insomma con qualche misura. Con qualche misura. Grazie, esatto. Dario. Saranno due derby assolutamente da infarto, perché chi perde va in Serie B e chi vince va in Serie A. Proprio tra due squadre ticinesi. Grazie Dario, non mi avventuro a dire vinca il migliore, perché sennò salterebbe fuori l'immortale battuta del Paron. Abbiamo recuperato Mimmo da Varese, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Volevo chiedervi una cosa, sì, ma secondo lei non è deterrente per l'Inter il fatto che Mourinho già si è messo d'accordo con Real Madrid e queste cose prima di una finale di Champions? E poi un'altra cosa, ma è la società dell'Inter che fa uscire queste cose o sempre all'Inter capitano queste cose prima di un evento importante? No, sono uscite dalla Spagna queste cose, io credo che Mourinho ne avrebbe fatto a meno volentieri e l'Inter invece pure, e poi è chiaro che sono uscite da là e poi hanno trovato qualche riscontro qui. Io devo ancora vederlo, Mourinho che va via, soprattutto se non dovesse vincere la finale, però insomma, mi pare, insomma, tutti dicono che i segnali sono questi. D'altra parte, vediamo un po' l'ultima dichiarazione: è la partita più importante del mondo, ha detto Mourinho, e ovviamente si riferisce a Inter-Bayern, è più importante anche della finale del mondiale, perché i giocatori sono migliori di quelle delle nazionali, così come la qualità del gioco in nazionale. In nazionale non possono comprare giocatori, a parte cambiare i passaporti di qualche brasiliano. Vabbè, sto perdendo un po' il filo, perché sinceramente non è facilissimo tenere dietro Mourinho. Speriamo no, insomma, ma se proprio dovesse accadere l'ineluttabile, insomma, e se fosse vero che l'Inter, che vincendo la finale di Coppa l'Inter sarebbe certa la partenza di Mourinho, io direi che tutta l'Italia, ma veramente al 101%, dovrebbe unirsi sabato sera nel tifo dell'Inter, sapendo poi che sono sempre i migliori che se ne vanno. Il consueto ripasso di storia, martedì 18 maggio, no, martedì non è mica detto, perché cambiando gli anni evidentemente, 18 maggio, chissà di che anno, la scelta anche oggi, come sempre, è di Nicola Filippone, la voce invece per ragioni tecniche di Flavio Suardi. Sembra ieri. 18 maggio 1994. Ad Atene il Milan di Capello scolpisce il suo capolavoro travolgendo nella finale di Coppa dei Campioni il Barcellona di Cruyff. Senza Baresi e Costacurta, il tecnico rossonero si affida a Filippo Galli e Maldini come centrali, con l'adattamento a sinistra del giovane Panucci. Ma la difesa regge molto bene l'urto di Romario e Stoichkov, mentre sull'altro fronte Savicevic e compagni sono immarcabili. Il Milan passa al 22esimo con un implacabile Massaro, che concede il bis al 45esimo. Nella ripresa a spegnere le speranze di rimonta dei catalani, ci pensa Savicevic dopo due minuti, beffando Zubizarreta con un pallonetto da cineteca. La rete del 4-0 finale è invece un premio alla caparbietà di Desailly. Per il Milan si tratta del secondo E questo era la finale, no? di oggi, quella di Atene, avete sentito. Il sembra ieri di ieri, invece, che non è andato in onda da Torino, anche in quel caso per un problema tecnico, era ovviamente il 17 maggio, ed era il 74, la prima Coppa dei Campioni del Bayern. Il Bayern di Udo Lattek, che fu una grandissima squadra che aprì un ciclo e ne vinse tre consecutive in quel caso. La finale fu a Bruxelles, leggo appunto nel testo di ieri di Nicola Filippone, non andato in onda, e fu un Bayern Monaco Atletico Madrid 4-0. Era il grande Bayern di Uli Hoeneß, di Gerd Müller, di Franz Beckenbauer insomma, e di tanti altri grandi giocatori. Ero un po' distratto perché su Sky Sport 24 stavano passando i gol di Padova-Ascoli di ieri sera, cioè contro una squadra che si deve salvare, che è il Padova, che lotta per salvarsi, e una squadra già tranquilla e serena. Ho visto i due primi gol, mi sono un po' distratto, causa cattivi pensieri. Marco da Verona, buongiorno. Buongiorno. Io volevo parlare del Chievo. Sì. Del Chievo. Sì, sì. Preciso che sono tifoso dell'Hellas, però bisogna ammettere che questa società sta facendo dei miracoli, perché con pochi mezzi e molta competenza sta facendo grande cosa. Io penso che in Europa ci siano poche squadre come il Chievo, società piccola e che riesce a stare in Serie A, insomma. C'è nessun dubbio su questo. Insomma, in 10 anni mi sono persino annoiato di ripeterlo ogni tanto e di sottolinearlo. Parliamo pure anche di trattamenti arbitrali, guardi, nel caso del Chievo, no? Visto che anche quest'anno c'è un saldo attivo-passivo di rigori dati a favore e di rigori dati contro, la metà dei quali definire discutibili sarebbe già un grande eufemismo, insomma, lasciamo perdere. Ma dato che domani ripasseremo insieme tutto il campionato, anche attraverso la grande cultura calcistica di Adalberto Bertolotti, ma anche attraverso molti numeri interessanti e molte curiosità, insomma, domani sarà l'occasione giusta. Ultima rata per ora della conferenza stampa di Mourinho da Piano Gentile. Gli hanno domandato ovviamente dove sarà il suo futuro e qual è questo suo problema con l'Italia, di cui ha parlato l'altra sera. Non è, ha detto Mourinho, un problema di contratto o di soldi, e mi fa anche un po' vergogna quello che guadagno con la crisi che c'è. È un problema di soddisfazione personale, di sentirmi rispettato o no in un paese calcistico in cui ho avuto tanti problemi. Non cambio quanto detto qualche giorno fa, non è vero che sono allenatore del Real, dopo la finale voglio 2 o 3 giorni per pensare con tranquillità al mio futuro. Ovviamente l'Inter non può fare niente di più per farmi essere felice e sentirmi importante, i giocatori sono fantastici, c'è empatia con i tifosi, tutti in società sono fantastici. Beppe ha chiamato da Salerno, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Ma innanzitutto volevo riallacciarmi a quello che lei diceva sulla Marcord, perché quel Bayern mi sembra che poi non giocò la Coppa Intercontinentale lasciandola all'Atletico Madrid, che tra l'altro poi la vinse. Quindi anche gli sconfitti a volte vanno in paradiso, come si dice, se non erro. No, io mi rilaccio al discorso Mourinho, perché si sta parlando, lei è stato coerente, io la seguo sempre, con il discorso Mourinho, dicendo che non fa bene, o meglio, non è probabilmente il massimo per il calcio italiano. Io dico che forse con la perdita di Mourinho soprattutto il giornalismo italiano perderà innanzitutto tante vendite dei giornali, perché Mourinho attraverso le sue esternazioni dà già... Beppe, mi scusi, sono 3 mesi che non parla? Cioè, tolta l'altra sera, sono 3 mesi che non parla. Non... E fa vendere i giornali anche quando non parla. Credo che sia il massimo anche questo. Guardi, i giornali non ha mai venduto poco come in questo periodo, purtroppo, lo dico con grande dispiacere. Questo vale per qualsiasi quotidiano italiano. Quindi dire che ci sia stato un effetto vendita, no, di Mourinho, magari direbbero editori e direttori, questi, abbia pazienza, ma sono veramente luoghi comuni. Se mi dice che molta pubblicistica, molta stampa televisiva e radiofonica si pasce di Mourinho, allora io posso anche seguirla, però insomma, lei ne fa una questione di coppie o di lettori di quotidiani, questo glielo posso veramente escludere. Da Parma, Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Dica Giovanni. Salve. Sì, io non volevo tirare fuori l'impermeabile, come dice lei, come l'altra volta. Volevo un attimo cambiare argomento. Volevo chiederle, avevo visto che Sconcerti in una trasmissione aveva detto che secondo lui tra Nereo Rocco e Herrera era miglior, cioè con tra tecnici migliori, ovviamente con tutto e il tempo che trova questo paragone, era meglio Herrera, e volevo chiederle se secondo lei tra Herrera e Rocco come tecnicamente. Poi Giovanni, ci vuole una puntata intera, perché erano due personaggi e due allenatori completamente diversi. Uno era certamente più innovatore, che era più scientifico, era più aperto alle novità, ed era Herrera. Su questo credo che non ci siano dubbi, sto rispondendo in estrema sintesi. Nell'altro c'era molto più umanità, molto più spirito di gruppo coltivato, molta più saggezza, mi verrebbe da dire contadina, anche se invece era un fior di cittadino, Rocco, una saggezza di altri tempi, insomma, che era perfettamente commisurata a quei tempi e che secondo me sarebbe perfettamente attuale e comunque trasportabile ai giorni nostri. Poi da qui a dire chi dei due fosse il migliore, tornerei appunto alla leggendaria battuta del Parò, che quando gli dicevano signor Rocco vinca il migliore, rispondeva ciò speremo di no, e già in questo credo ci siano stratificazioni di commedia dell'arte italiana, ma di quella vera, non i bagaglini a cui siamo ridotti oggi. Chiedo scusa ad Antonino La Messina, non c'è più tempo e sarà il primo ascoltatore ad essere richiamato domani. Grazie a Fabio Cantadori in regia, Flavio Suardi e Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio a tutti.